su 22.000 insegnanti stimati, in cui però includo anche i docenti non di ruolo, quindi tutto, diciamo, una serie di figure che magari non si sono sentite, diciamo, coinvolte abbastanza da questo progetto, noi comunque siamo riusciti a coinvolgerne 14.000 di partecipanti, fra docenti e dirigenti delle quattro regioni. La percentuale di partecipazione sulle quattro regioni è stata del 64%. Abbiamo però da sottolineare che ci sono state punte anche dell'80% in alcuni luoghi, quindi 80-85%, quindi fermo restando che questo dato ha una caratteristica di parziale incertezza, può essere comunque un dato indicativo. La partecipazione poi dei docenti appartenenti alle diverse aree disciplinari, abbiamo avuto ovviamente un 46% di partecipazione dei docenti di italiano, un 31% dei docenti di matematica, un 23% dei docenti di scienze, che corrisponde grosso modo alla quantità degli insegnanti di queste diverse discipline, quindi più o meno dovremmo essere, diciamo, dovremmo avere dei dati abbastanza affidabili da questo punto di vista. Cosa abbiamo fatto per, diciamo, realizzare questo piano, anche per avere un minimo di ricapitolo generale? E intanto le quattro regioni sono state, voi lo sapete, sono state la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia. Abbiamo avuto un coinvolgimento delle 24 province e 26 istituti che hanno organizzato, e che ringrazio ancora perché vedrete, insomma, c'è una buona soddisfazione riguardo alla capacità organizzativa che queste scuole sono state in grado di mettere in campo. Abbiamo realizzato 133 seminari su 134, quindi uno solo non è stato realizzato. E abbiamo con oggi concluso quattro seminari conclusivi e di sintesi. I formatori coinvolti sono stati 225, quindi voi siete stati 225 complessivamente. Vorrei darvi qualche dato anche relativamente alla spesa, perché non sottovalutiamo, ci deve essere anche la consapevolezza di quanto costa un'operazione di questo genere, che non è poco costosa, diciamo. Infatti le quattro regioni dell'obiettivo convergenza sono state le uniche a beneficiare di questo tipo di intervento, che, di cui avrebbero avuto bisogno anche le altre regioni, però purtroppo non ci sono risorse di natura nazionale per poter realizzare questo piano anche nelle altre regioni. Allora abbiamo fatto un impegno di 3.700.000 euro, ai quali si devono aggiungere anche le spese calcolate per l'invalsi e per l'organizzazione della prima parte del piano, quindi siamo intorno a una spesa di 4 milioni e mezzo. In questi 4 milioni e mezzo includo anche le risorse spese da marzo 2008 a novembre 2008 per la preparazione dei tutor di Matave, Is e Poseidon, dai quali siamo partiti per la preparazione, diciamo, di questo piano. E non è una cosa da sottovalutare, sono risorse del precedente programma operativo, la Scuola per lo Sviluppo, che abbiamo potuto destinare a questo piano in considerazione della coerenza di quel programma anche con questo tipo di iniziativa. Abbiamo quindi previsto di spendere 264 euro a partecipante. Devo dire però che già oggi possiamo calcolare una economia del 40-45% su questo importo previsto. Le spese, soprattutto di spostamento dei docenti, sono state molto inferiori al previsto. È chiaro che in questi casi si devono prevedere tutte le ipotesi, quindi l'impegno è stato superiore. Però queste risorse economizzate saranno reimpiegate poi nel prosieguo del piano. Quindi noi con i fondi strutturali abbiamo un principio che vale la spesa reale, e dunque tutto quello che poi non viene speso viene economizzato e reimpiegato per le diverse attività del programma, quindi non c'è nessun problema. Vediamo un pochino alcuni dati generali sulla, queste, che provengono dal questionario distribuito in uscita dei partecipanti. Molti presidi presenti sanno, non so se gli altri partecipanti team lo sanno, noi abbiamo elaborato questa scheda solamente verso la conclusione dei lavori di questi seminari, non abbiamo fatto in tempo a farlo prima, tuttavia abbiamo reperito da tutte e 26 le scuole e materiali di rilevazione che avevano messo in campo i singoli presidi. Dunque da questa lettura di questi dati emergono delle valutazioni che io posso definire positive. Come vedete la domanda era se l'iniziativa ha contribuito a creare un clima di maggiore attenzione delle scuole nei confronti delle proprie OCSE PISA e risulta che la gran parte, anche vedete ci sono dei dati anche a livello regionale, quindi potete controllare, e ha risposto abbastanza o molto. Quindi il solito zoccolo duro dell'1-2% ha risposto per nulla o poco, ma no, noi non siamo preoccupati da questo, cioè, esiste sempre una percentuale di persone che non riesce a non farsi toccare minimamente dalle novità e dalle sfide del futuro. Dunque crediamo che quindi complessivamente ci sia stata una impressione positiva. Questa impressione positiva posso dirvi che noi l'abbiamo comunque acquisita anche indirettamente da tutta un'altra serie di messaggi che nel tempo, in questo frattempo, ci sono arrivati sia da parte vostra sia da parte dei diretti partecipanti. Quindi noi in corso d'opera, a parte partecipare direttamente ad alcuni seminari, un gruppo delle persone sia degli Invalsi che del Ministero hanno partecipato costantuariamente ad alcuni seminari, abbiamo avuto comunque un'impressione sostanzialmente positiva di come siano andate le cose, e quindi oggi vorremmo capire con voi quali fattori critici, quali fattori forti possiamo poi utilizzare per il proseguimento. Allora, due o tre parole, ma poche parole, sui problemi incontrati e anche sulla soluzione di questi problemi. Tutto sommato, intanto l'inserimento di questa iniziativa in collegamento con le altre azioni del programma, qui noi abbiamo fatto uno sforzo per quanto riguarda il Ministero titanico per cercare di far capire quanto questa iniziativa era collegata ed è collegata all'insieme delle altre azioni del programma operativo, e di questo ne parliamo dopo, perché vorrei riprendere il discorso e darvi tutta una serie di collegamenti che mi è molto utile che voi ne abbiate consapevolezza per poter anche essere portatori di questo tipo di messaggio. Per quanto riguarda ovviamente la gestione di questi progetti, le scuole ne sanno qualcosa, abbiamo dovuto mettere a punto un sistema ad hoc nel sistema informativo che utilizziamo per gestire i programmi operativi, e quindi c'è stata qualche iniziale difficoltà a poter riempire questi sistemi, ma che presentano tuttora qualche difetto, ma che sono molto utili per poterci dare delle quantità e delle indicazioni specifiche dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Alcuni problemi li abbiamo incontrati nel finanziamento, nelle modalità di finanziamento del programma, che voi non so quanti sono a conoscenza di questi meccanismi piuttosto complessi che l'Unione Europea mette a punto per la gestione dei programmi. C'è una fluidità molto poco c'è poca fluidità nei flussi finanziari, e questo ci comporta dei problemi. Io ho dovuto provvedere anche a chiedere un emendamento per avere su un decreto legge, per avere una anticipazione da parte del Tesoro, perché i flussi dei fondi strutturali funzionano al rimborso, quindi tutto questo crea dei grossi problemi alla funzionalità dei programmi. Però siamo riusciti, proprio ieri ho avuto notizia di questa, della pubblicazione del decreto che ci consente di avere un'anticipazione da parte del Tesoro sulle spese effettive delle scuole. Poi alcuni problemi di coordinamento, abbiamo, vi dicevo all'inizio che abbiamo per la prima volta, non proprio del tutto, nel senso che abbiamo sempre cercato di lavorare con tutti, però devo dire che per la prima volta questo piano ho visto la partecipazione di diversi soggetti istituzionali, come il Ministero invece di sede centrale, gli uffici scolastici regionali, i Balti e l'Agenzia. Poi siete stati protagonisti di un processo di organizzazione di tutti i team che non è stato affatto semplice e che voi lo sapete, e quindi come dire, sicuramente c'è stata qualche difficoltà, diciamo, di coordinamento, che però posso dire è stata poi risolta grazie al lavoro di tutti e devo dire la collaborazione veramente personale diciamo, di tutti coloro che hanno lavorato qui anche in Sicilia, dalla dottoressa Russo a Roma c'è, cioè, la dottoressa Pistoletti che ha lavorato alla Clemente, e voi la conoscete tutti come in Valsi, e anche il mio ufficio che con Susanne lì ha potuto, diciamo, seguire tutto e cercare di risolvere tutti quei problemi che si sono venuti a creare. E abbiamo scelto gli istituti sede in collaborazione con gli uffici scolastici regionali. Sembra appunto da queste schede che abbiamo somministrato che tutto il lavoro organizzativo sia stato svolto molto bene, c'è stata la piena soddisfazione di tutti. Quindi, benissimo, detto questo, come pensiamo di proseguire? Non so quanti di voi hanno potuto vedere la circolare che abbiamo emanato il 6 di febbraio. È la circolare con cui vi dicevo che abbiamo, con la quale abbiamo dato pubblicità alla creazione della piattaforma. In questa circolare noi abbiamo prefigurato un possibile proseguimento verso, diciamo, il piano di sensibilizzazione da realizzare con le scuole medie. Io uso questo termine così è più semplice, e cioè vorremmo ora ricominciare con le scuole secondarie di primo grado e chissà in seguito vediamo con le scuole primarie, però intanto è evidente che noi non avremmo potuto fare in tempo a coinvolgere le scuole medie in questo breve periodo e la gran parte dei quindicenni sono collocati comunque nelle prime due classi dell'istruzione secondaria, quindi ecco perché abbiamo invertito l'ordine, abbiamo cercato di colpire, diciamo, l'attenzione di quei docenti che sono i docenti dei quindicenni che saranno a cui somministrare le prove adesso ad aprile, quindi non potevamo fare diversamente. Però ecco, la cosa che abbiamo pensato è quella intanto di cercare di coinvolgere quel 30% circa, perché ripeto, sulla percentuale non siamo sicuri, perché venendo, diciamo, le singole regioni abbiamo avuto la sensazione dai vostri interventi che la partecipazione sia anche più larga, sia stata anche più larga di quella che noi abbiamo potuto registrare con questi dati, quindi è molto probabile che sia inferiore al 30% il numero di docenti che non siamo riusciti, diciamo, a coinvolgere in questa fase. Allora c'è un'idea di cercare di comunque raggiungere questa percentuale di docenti della secondaria, di coinvolgere i dirigenti dell'istruzione secondaria con degli incontri di feedback che dovrebbero essere brevi, ma rendere, diciamo, dare efficacia a questa azione, e coinvolgere tutti i dirigenti scolastici della scuola media, della scuola secondaria di primo grado, per un'azione di presensibilizzazione e per fare in modo che poi da settembre si possano coinvolgere i docenti della scuola, della scuola media. Allora, quali sono i numeri? Qui siamo con numeri grossi, ovviamente, abbiamo 31.600 insegnanti di italiano, di matematica e scienze, matematica, scienze italiano. Come sapete, nella scuola media i docenti di matematica e scienze sono di una stessa, diciamo, classe di concorso, per cui abbiamo questo problema da affrontare, come appunto coinvolgere su matematica e scienze docenti che insegnano, diciamo, la stessa disciplina. Abbiamo detto 31.000 insegnanti, se potete vedere abbiamo anche una scheda articolata, diciamo, per regione, che coinvolge gli istituti comprensivi e quelli di primo grado, e come vedete il numero è considerevole. L'idea è quella di fare un piano più lento, più tranquillo, diciamo, di quello che abbiamo potuto realizzare per tanti motivi, di riorganizzare i team in un numero sufficiente per poter raggiungere i 31.000 insegnanti e di iniziare da settembre con una previsione di conclusione in giugno 2010. Quindi abbiamo più tempo, quindi possiamo cercare di fare un lavoro un po' più leggero, come dire, meno pressante, però vorremmo che fosse ugualmente efficace, quindi come dire, cerchiamo di, anche sentendo voi oggi, di vedere come fare a migliorare e come fare a riarticolare i team e anche ad avere un numero sufficiente di persone, di esperti che possano raggiungere un cotal numero di insegnanti. Questa è la previsione per il futuro. Ovviamente cercheremo di mantenere in vita e cercare anche di integrarla la piattaforma dell'Indire, vediamo anche con materiale, diciamo, ulteriore che potrebbe essere materiale che ci potete fornire voi a seguito di questa prima esperienza.